per me è così. È bello! Buonasera Giulio! Buonasera a te, e beh, come ci va? Come vuoi che ci va? Sempre impegnato. Ero sei contento. Ah, ma cosa? Ho ti vedi la malinconia. Ma cuccio. Andiamo e andiamo. E allora, cazzo. E non ti vedi la malinconia e c'ha sette femmini chi di cazzo, ya. Cosa hai combinato oggi? Ha detto, sempre impegnato. Con nipoti, figliola. Oh, yeah. Tu sai che mi lasciano in pace anche lì. Ehi, già diventa di manni. Andiamo. E ancora c'è un mio paese, però dopo cominciassi a malnizzi. Cazzo, allora il nonno gli ha lasciato in pace. Oppure una cazzo sua mano gli ha lasciato in pace. Ma non so male che sono smagato. Ehi, sto pensando ma isso to, che si pensa isso guai. andiamo, caspita. E allora, infatti, ma chi si è sentito lei? L'ho chiamato e mi diceva che non era raggiungibile. Ma ci siamo dall'altro telefono e non risponde, squilla ma non risponde. Speriamo che sia bene, sia tranquillo, va, quello che conta. Vuol dire che non potevo rispondere. Già si troverà il numero se mi vuole chiamare. È quello che dico anch'io, se uno ti attende di chiamare, cazzo, già rimane il numero, per cui può ritelefonare. Che vedranno loro, va. Infatti è così. Ma speriamo che sia così. Se no, oggi temo che andiamo a casa Giulia. Anche quello si può fare. Perché sarà bene, per far male meglio non andarci, anche se no magari è peggio, va. Infatti è così, quando è peggio. Penso che lo rimettano domani, penso. Speriamo bene. Sì. Ma ricoverato allora? Ricoverato. Per fare gli anni. 60, 2009, 2006, c'è un super malattino. L'ultimo vice trasmettitore, io ho l'Airbag, il 40, 81. Speriamo bene allora che domani lo mandi a casa. Allora glielo sentiamo, se a casa. L'ultimo anche quello, cioè l'MVP5 è sempre a Bidello. Lì non posso, no, non ci fanno entrare, non fanno entrare nemmeno i genitori. Quello è paziente, è brutto anche per quello. Cazzo, che una ghigia io ricoverato, no, lasciavo. E quindi cos'è? Va bene così. E per chi? E per chi non posso, no, fanno entrare nessuno, lo so. La moglie. Guarda, l'infermiera si arrangiano loro. Infatti, così facevano a me. Me la portava a mio nipote perché lavorava lì in portineria e per cui me la portava a lui, andava all'infermiere e l'infermiere la portava a me. Addentro a lui lo lasciavo entrare, per immaginare, ma è così, anche per quello brutto, cazzo, per carità, mamma mia, cazzo. A me davvero un po' di conforto con i genitori, però purtroppo forza maggiore non possono entrare. E per la salute di tutti è meglio che sia così, so. Meglio che sia così. Meglio che ci togliamo tranquilli e coso. Ma adesso penso che l'attacco mi sembra che la faceva oggi. E domani con tutte le cose, come sapevano i risultati, no, o l'ho portato a casa direttamente. Speriamo bene che sia, però ci andrà bene, va. Speriamo bene. Marino non ha sentito nemmeno. L'ero già meglio, a vedere se si intendia. Se entrava, boh. Ah, già l'hai sentito? No, non l'ho sentito, no. Lo stavo chiamando a fare vedere se lo senti oggi. Hai a tubare, boh. Aspetta che ti faccio la telefonata. È strano, eh. Aspetta che ti faccio la telefonata, to. E io già Mari. Non rispondi, no. Il telefono squilla, però non risponde. Ma che non si è dimenticato lo telefono, se non è con un nipote lo telefono che a Catrabassi. E dopo alla fine era come occupato il telefono e allora spento. Sicuramente stava entrando la segreteria. Vabbè, già si troverà la chiamata. Purtroppo, chissà chi non lo sa, ma già gli rimane la chiamata. Quello che dico anch'io. Mi ha piacere di rispondere a la chiamata, perché vedo un po'. Tutti i parenti sono dalla frequenza, che da su. Boh, la sente su più, boh, c'è Libia, boh. Siamo vicino alla Libia, sarà. Se ne giro il giro. Certo, ha detto che ci faceva un giro umano, ha detto. Ma manco più a Tonino, ha gentiso. Ah? Tonino! No, nemmeno io, non l'ho sentito. No, ripeto, no. A nessuno, né Tonino, né Emanuele, boh. Tutti morti. Cosa vuoi fare? vabbè. Che non rientrerà, vuol dire che ci amarà. Quello che dico anch'io. Quello là, cazzo, certo, l'ho fatto la chiamata e non mi ha risposto. Allora? Ma infatti c'è un nuovo gruppo, anche stamattina, un saluto, ci avanti via subito. Se vuole chiamare a trovare la risposta, la chiamata. Un caffè, due chiacchiere, eccetera. Ci hanno piacere, spero che stiamo bene. Io mi alzo molto presto, vado vicino a casa, che non c'è mai nessuno, così mi chiamavo la mattina, mi prendo un caffè. Quello dipende tutto dai vivi. Quando siamo in guida, vuol dire in guida riposiamo. Certo che se uno non lo sa bene, cioè già viene da capirlo, cazzo, però. E io ti chiamo, io penso che, cazzo, che riuscirai a vedere che ti hanno chiamato e puoi fare anche una chiamata anche tu, o no? Infatti è così, purtroppo sarà così. Già c'è Menoghi, c'è Boni Giamà. Io ho fatto il mio dovere. Il dovere altrui. Io ho fatto il mio dovere, poi vedranno gli altri se hanno piacere e se hanno la voglia. Infatti, se non è impegnato, già c'ama. Ecco, lo dico anch'io. Ma cosa vendeva questo? Adesso quando sono rientrato stava quella con la pioggia, vieni. Stasera serena, ho iniziato con di barriadetta. Infatti, è così. Ogni andata con una bassa da voce e poi si dorrà caimà. Andiamo. Ne abbiamo visto la tanghetta, ne abbiamo così. Non ho capito. E anche l'altra settimana è così. una perturbazione appresso all'altra, una appresso all'altra, Pinelli. Certo. Ma voi non ce la mettiamo con il sistema. Oh, c'è il sistema, da chi ci mandano c'è il sistema, Lo gioco. Già lo so, sì, purtroppo chi si è condotta pigliando il barugluta tutta la città, sia Porcodoro, Sentino, Casa del Sardo, Senno e Susu, e pigliando il barugluta chi si è condotta. Anzi, chi si dice che si è condotta? Beh, la settimana scorsa che siamo stati 2 giorni senza acqua, non è così? No, un giorno e mezzo, perché ne è giunta a verso Londra, si è giunta. Cazzo, ma oggi, ogni tanto, cazzo, non si ne comprende più di sé, però a pagare gli arrivi subito il pagamento. Ma non dipende da Manova, no, dipende da Selva, come ti si chiama, E bene a Manova, per Manova, si non fate il travaglio come ci si deve fare. Non è qui per da Manova, no, è colpa di chi si fa meno lo coso di Coghinas. Dipende da chi ci dobbiamo fare, la condotta nuova dobbiamo fare. Ma vai per tutta la denuncia pure per tutta, a chi ci. Per vedere cosa sono convenendo, ogni agheta a vedere la questa condotta. Ma che ce l'abbiamo fatta nuova, l'abbiamo fatta. Caro bene. Capito, Zappurelli, costa i nuovi e si fa stagizzare. Così che il ribone di Dio si fa la nuva, cazzo, Ma a quest'ora c'è la cacca da nuva e non c'erano state più preoccupazioni, Baghis. E invece ce ne sono fottendo, ce ne sono incascendo di denaro e ce ne sono mangiando. Ecco cos'è, invece di pensare a fare la nuva. E allora io che ho fatto tutti i condotti nuovi, però non ho allacciato a chi cazzo non fa ridere, va. Insomma, lì è tutta una villa da Barunguru, chissà, si continua a negoziare, ma se è entrata la magistratura, è entrata a vedere cosa è succedendo. Ah, voglio vedere cosa ne gomminano. Ma speravo bene che qualcuno riesce a fare che cosa. Ma che come fai, cazzo? Allora, qua ogni buco di bancareva, cazzo, come fai, cazzo? Boh. Non si ne comprende niente, cazzo. Era una condotta che doveva essere fatta nuova, Giomani. Invece era già sempre rattoppendi. E allora, fatta a luce, capito? Ma non si dà luce ogni guida deve andare con sala, ogni guida. Visto che la gente non si gira e cominciano a fare dar tassali delle frati e fare la denuncia. Come ti hanno fatto fare cose di Abanoa. Cazzo, ma è una cosa credo. È un bel di luoghi, un bel di paesi che c'è il sema, cazzo. Ma che fai, cazzo? Ma come ci fai, cazzo, il sema, cazzo? La famiglia manna, cazzo, ma che fai? Cazzo, ma poi sì. Che l'unica cosa è da fare cosa di TV. Entra la magistratura e fa parte di denuncia, ragazzi, devi far parte a vedere cosa c'è combinando. Ma alla c'è l'accusa di questo fatto di rubire, tu capito? Siamo sempre lo stesso. No, devi prendere i soldi, cavare i denari e fare la nuova. Partire con la condotta nuova, poi a ultimo fai mancare per un giorno. Alla colleghi, ecco cosa è, extra grave che si è condotta nuova. Per carità, mi assento, dai, già ci sentiamo dopo, ok? Ok, Giovanni, già sono qua. Ehi, Giammarino. Ehi, va. Ti ho portato che c'è gente. Ci sentiamo domani, tu. Ma prima di me, ci sono in casa. Ok, ciao, Giammarino. Ci risentiamo.